Guarda come si sono già allungate le giornate. È bello stare un po' seduti qui e averne di giornate con un sole così, così forte da graffiare gli occhiali. È così dolce che lo puoi mettere nel caffè. Senti come si è fatta calda questa sera. Ed era inverno solo un'ora fa. Se averti può bastare, voglio averti di più. Mentre dietro cambia lento il fondale, come in teatro quando inizia la tournée. Mio dolce amore con le labbra salate di noccioline e vino freddo accanto a me, col naso al vetro di quel cielo che promette l'estate. E se lo guardi non capisci perché ci ha messo un anno a liberarci le mani, ci ha messo tanto a ricordarsi che c'è. Guarda come si sono già allungate le giornate. È bello stare qui vicino a te, seduti ad aspettare mentre il sole va giù. E questo tempo passi senza invecchiare, perché domani avremo solo un giorno in più. Mio dolce amore con le mani intrecciate, che all'improvviso non ti accorgi più di me. Lo sguardo perso in un cielo che è già un cielo d'estate. E questo amore d'aprile, se c'è, sia così scaltro da legarci le mani, sia così forte da restare con me.